Il nuovo album si chiama Indiani Cowboy, è un disco nato in Emilia, e realizzato, concluso, finito in Texas, ad Austin. Wow. Per questo io lo chiamo un album emiliano-texano. Sì, abbiamo visto. Fusion. Senti, ma com'è no, questa idea? Ah, è stata un incrocio di congiunzioni astrali, non so come dire, come definirle. Ho avuto l'opportunità di lavorare con un produttore americano fantastico, si chiama Rick Del Castillo, un chitarrista eccezionale, che produce dischi e si occupa, diciamo, principalmente adesso di colonne sonore. Okay. Colonne sonore mica banali, cioè dei film di Robert Rodriguez. Meraviglia. E di alcune cose con Quentin Tarantino, quindi fantastico. Insomma, bastica quel mondo lì. Mamma mia. E quindi ho avuto la fortuna di incontrarlo grazie a un amico, Paolo Paggetti della River Tail, che ci ha messo in contatto, ed è nata questa meravigliosa collaborazione. Noi abbiamo registrato le basi, come dicevo prima, in Emilia, gli abbiamo mandato tutte le canzoni e lui ogni tanto ci mandava delle chicche lavorate da lui, risuonate, prodotte, e dopodiché io sono andato in Texas ad Austin a finire di cantare i brani e a mixare l'album e a chiudere il lavoro. Direi, ecco, un viaggio stato meraviglioso. Ma io voglio chiederti una cosa: cosa ti sei portato dietro dell'Emilia e cosa invece tornando a casa ti sei portato via del Texas? Beh, allora, sicuramente mi sono portato con me la mia emilianità, che difficilmente riesco a cavarmi di dosso, insomma, quando io mi reputo proprio un emiliano doc. E quando si sente nella mia parlata, oltre che nelle mie canzoni, nel mio modo di scrivere, nel mio modo di fare e nel mio modo di essere. Quando sono andato là mi sono confrontato con una realtà molto differente, molto diversa, musicalmente parlando. E però spero che quello che ho visto, quello che in qualche modo ho raccolto là in America, mi possa tornare utile per il futuro, anche per lavorare in modo diverso e avere magari una mentalità anche un po' più aperta riguardo alla canzone in generale, alla musica e agli arrangiamenti. Ottimo. Senti, ma noi sappiamo che facevi parte appunto dei Modena City Rambles, come mai questa scelta di ripartire da solo? Sai, la vita ti porta a delle scelte a un certo punto. Io ho fatto 14 anni meravigliosi con i ragazzi dei Modena, ho praticamente fatto nascere e crescere il progetto, e però a un certo punto avevo capito che non avevo più molto da dare a quel progetto lì, e anzi forse avrei messo i bastoni tra le ruote. Okay. E beh, sicuramente è una scelta coraggiosa, molto, no? Sì, ho deciso, ma sì, non so se coraggiosa o meno, però ho deciso di riprendere in mano la mia vita e di ricominciare, non dico da zero, ma forse ho cominciato da tre, come diceva il buon Troisi, sì, da tre cose che avevo fatto buone, da lì sono ripartito. Ma cosa ti porti dietro, insomma, questa parola chiave, no? Cioè, il bagagliaio, cosa ti porti dietro a quella esperienza fatta di tantissime copie vendute, tantissimi palchi solcati e collaborazioni su collaborazioni? Beh, è tutta un'esperienza, un bagaglio di esperienza che ti rimane dentro e ogni tanto sbuca fuori, ogni tanto si riaffaccia. Le canzoni porto con me le canzoni scritte, fatte con i Modena, e che io puntualmente rifaccio dal vivo in una nuova veste con la mia band, e quindi insomma è un bagaglio che non mi abbandonerà mai. Okay. Alla fine io anche tra 20 anni, 30 anni, 40 anni sarà parte di te. Rimarrò l'ex cantante dei Modena City Rambles, e comunque mi va bene così. Oh, ok. Senti un po', ma a proposito dell'erba cattiva, parlaci di questo nuovissimo singolo uscito il 29 marzo. Com'è nato? Guarda, l'erba cattiva è una canzone che nasce in maniera anche un po' biografica, nel senso che parla di quel mondo, di quelle persone che si sentono sempre fuori posto, che diciamo il mondo cosiddetto per bene e inquadrato non vorrebbe neanche vedere, quindi lì ci potete leggere quello che volete su questa immagine. L'erba cattiva gli dicevo, sono io, ma sono tutte quelle persone che magari pensiamo che dire un po' fastidio, che non vorremmo vedere, che non vorremmo più sentire parlare, ma che mettono radici, come l'erba cattiva tu cerchi di estirpare, ma non ce la però fai. Alla fine ce la fanno sempre, crescono e vanno avanti. Quindi in un certo senso anche gli outsiders, possiamo dire. Assolutamente, okay. Assolutamente. Okay. Guarda, in un mondo, semplicemente senza voler fare discorsi filosofici o sociali, ma un discorso musicale, il mondo della musica va da un'altra parte, ma nonostante tutto ci sono io con la mia musica, con le mie chitarre, con il mio folk, rock, che cerco di resistere come l'erga cattiva, mi aggrappo per terra e continuo a fare musica. Fai bene, fai benissimo. Stefano, a proposito di socialità, cosa ne pensi del fatto che, insomma, se si è attenti, ci si rende conto che nella musica spesso volentieri vengono toccate molte tematiche magari che 10 anni fa non venivano nemmeno nominate, ma la politica e il sociale comunque hanno ceduto il passo a tanti altri temi rispetto a qualche anno fa? Guarda, non so se ho capito bene la domanda, però adesso mi sembra che, correggimi se poi ho capito male, mi sembra che ci sia poca voglia di ascoltare musica tra virgolette impegnata, mm-hmm. in qualunque genere esso sia. Mi sembra che ci sia molta voglia di musica usa e getta, cioè, ma è il mondo attuale della musica così, cioè tu devi fare un singolo che dura il tempo di un'estate, ma neanche di un mese, mm-hmm. per poi venire sostituito dal nuovo pezzo dell'altro artista che prende su e fa la stessa cosa. Quindi è una musica che tende a non rimanere. Noi facciamo anche fatica a volte a ricordarci le canzoni di 3-4 mesi fa che andavano per la maggiore, proprio perché c'è poca abitudine ormai ad ascoltare profonditamente le cose, a immaginarsi ancora di più ad ascoltare un disco intero. Sono uno, un dinosauro che sono rimasto ancora a fare dischi interi che hanno un inizio, una fine, un concetto. Ho abbassato il numero dei pezzi che metto nei dischi, sono arrivato a 10, però comunque un disco voglio fare, quello che devo dire lo dico in un disco. Invece adesso questa cosa non funziona più. Tutti chiedono un singolo a tutti i nuovi cantanti, soprattutto i giovani, rapper, trapper, tutta quella gente lì, e devono dirlo in quei 3 minuti, devono dire quello che vogliono, spesso non devono, dicono, possono dire quello che vogliono, ma spesso non dicono neanche tanto, e quindi mm-hmm. la gente, cioè, è fatta a quel modo lì. Ecco. Guarda, lui non è vero che è tutto così, mm-hmm. e c'è della roba anche di qualità, della roba che ha cose da dire, che lo dice. Però purtroppo è l'abitudine brutta, dico io, dell'ascoltatore che ormai non fa più attenzione a nulla. Noi ovviamente ci piace portare alle orecchie degli ascoltatori di Radio Città Fugico un po' tutte le opinioni, no? Stiamo raccogliendo varie prospettive. Esatto, ecco. Lati della medaglia, insomma, che si incontrano, sì. E si scontrano. Senti, ma parlando di musica appunto attuale, dici magari un artista che ti piace o uno che ti piace meno, giusto per fare così degli esempi. Di quel ma che no, allora che mi piace meno non lo so, gli artisti che non mi piacciono tendo a non ascoltarli, quindi sì, magari in cui anche. Non ti rispecchi semplicemente. Diciamo, in genere io non sono un amante della musica rap, perché okay. proprio non per semplicemente perché non la capisco bene e diciamo sono uno vecchio stile che ha bisogno di una linea melodica cantata, e quindi sono abituato a quello, ma questo non vuol dire che non sia musica di valore importante, tutt'altro, mm-hmm. sono io che non l'ascolto e non la capisco più di certo. tanto. Però diciamo, io ho dei bambini, il più grande ha 11 anni, e loro che ascoltano invece questi cantanti giovanili che vanno per la maggiore, ho sentito alcune cose, per esempio, adesso me ne viene uno, mm-hmm. che si chiama Galli, che voi conoscete. Sì, certo. Devo dire, ho sentito dire delle cose che non mi dispiacevano, e anche cantare delle cose che non mi dispiacevano. Poi ho sentito attraverso i loro ascolti, quindi io purtroppo sono rimasto, ribadisco, a un'altra era. Io ascolto Cucine, mm-hmm. ascolto di Andrea, ascolto Lucio Dalla, ascolto De Gregori, e quindi sì, sono un po' rimasto lì della musica italiana.